Tibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, puntata ricca micificco, soprattutto di libri e di colonne sonore. Però insomma, lo scoprirete tra poco, godetevi intanto questo brano con cui scaldiamo i motori. Sai che io voglio crederti, fortuna per me, 5 minuti di te. Prendimi, prendimi ancora, guardami, carezza il cuore, poi scorda. Sorprendermi, la fortuna se c'è, 5 minuti di te. Rubami, rubami sogni, prendimi, guarda. Minuti di te, però no, state tranquilli, quest'oggi Banzo, diciamolo chiaramente, non parleremo di Vanna Marchi, non è dedicato a lei questa puntata di Zibaldone. Banzo, bentornato, ergonomico come sempre, lo so già. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. No, ho avuto hai sentito quel secondo di silenzio? Sì. È stato un po', sai, quello scampato pericolo, perché temevo che cambiassi idea all'improvviso e che dedicassi impromptu tutta la puntata a Vanna Marchi. E non è forse così. Qualcuno si chiede perché, comunque spiegalo. Sì, lo spieghiamo. No, innanzitutto la puntata di quest'oggi, 13 ottobre, qui a Zibaldone, è dedicata al FLIB. FLIB Time si intitola. Il FLIB, che cos'è? Il Festival di Letteratura Italiana di Barcellona, che si tiene in questi giorni, questo fine settimana, proprio qui nella Ciudad Condal, nel barrio di Gràcia, nel quartiere di Gràcia essenzialmente. Ne parleremo con Cecilia Ricciarelli, che oltre ad essere l'anima della libreria Le Nuvole, libreria italiana di Barcellona, è anche la direttrice artistica di questo festival. E poi avremo come ospiti Yvu Ming, meglio dire Yvu Ming 4, uno dei membri dello storico collettivo, che ci parlerà del loro nuovo romanzo UFO 78, perché parteciperanno al FLIB di questo 2023. Ma ecco, detto ciò, Vanna Marchi che cosa c'entra? Abbiamo pensato di accompagnare questa chiacchierata sulla letteratura italiana e sul FLIB che si tiene a Barcellona in questi giorni con Banzo delle colonne sonore, colonne musiche che si associano a film italiani che sono tutte uscite recentemente tra l'anno scorso e quest'anno. Sì, in questo caso trattasi di un documentario, Vanna. Io quando ho visto il titolo la prima volta l'ho letto all'inglese Wanna, poi dopo ho capito che no, era un documentario su Vanna Marchi. E guarda, per la sezione delle piccole curiosità interessanti o no, vorrei riportarti il titolo spagnolo, perché ovviamente in Italia basta con Vanna, o quasi, come nel mio caso, ma in Spagna Vanna Marchi non è un personaggio così noto, quindi la serie si intitola Vanna Marchi, nome completo, la telestaffadora d'Italia, cioè la teletruffatrice d'Italia. Beh, molto chiaro, voglio dire, bisognerebbe capire anche se ha avuto successo tra il pubblico spagnolo. Però diciamo una cosa, la regia di Alessandro Garramone, una docuserie che è uscita su Netflix lo scorso anno, nel 2022, e cosa importante, il brano che abbiamo proposto, che è molto bello, 5 minuti di te, la voce è quella di Daniela Peroni e la canzone di Don Antonio and the Gracies. Don Antonio, quello dei Sacri Cuori. Esattamente. E a proposito di altre colonne sonori, adesso ci andiamo a sentire, Banzo, prima di parlare un po' del Flip con Cecilia Ricciarelli, due artisti molto bravi, molto amati, che stanno avendo molto successo e che hanno fatto anche questa canzone in un film in cui sono anche i protagonisti. Esatto, perché vi andiamo a proporre Con la pesce di Martino, con la canzone Il cuore è un malfattore, non un truffatore, ma un malfattore. Beh, nemmeno uno zingaro, come avrebbe cantato Nicola Di Bari. Il cuore... è andato in prescrizione ormai. Il cuore è un malfattore, con la pesce di Martino. Il mio serpente è più lungo del tuo, e questo flebilmente scava sull'autostima. Interi pomeriggi umiliati dal sole, noi roventi come pietre nelle cave. Perché, perché non parli più? Io non sfortuna, Dio, è un rivolo d'argento questa luna. Cos'è che c'è? parlare di questa seconda edizione del FLIB, Festival di Letteratura Italiana di Barcellona, che si sta tenendo in questi giorni qui nella Ciutat Condal fino a domenica 15 ottobre. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Cecilia Ricciarelli, che oltre ad essere l'anima e la fondatrice della Libreria Italiana Le Nuvole, è anche la direttrice artistica del FLIB. Cecilia, bentornata a Zibaldone. Ciao Steven, grazie di avermi invitata. Un piacere averti con noi. Quest'oggi il FLIB è il fil rouge di questa puntata di Zibaldone. Secondo anno, l'anno scorso è andata molto bene, ne parliamo qui in radio. Tornate quest'anno con una programmazione ricchissima. Il titolo è Binari Secondari. Ecco, spiegaci. Spiega ai nostri ascoltatori che cosa sono questi binari secondari e perché questo titolo. Allora, Binari Secondari è giustamente un titolo che ci fa venire in mente tante cose, non è binario come titolo, e indubbiamente fa venire in mente a noi l'identità. Quindi quest'anno parleremo di identità culturale, di identità di genere, di tutti i tipi di identità che possiamo declinare. E come sempre, come tu dicevi, è la seconda edizione. E come la prima sarà un incontro, un dialogo tra autori italiani e autori locali. E il festival è cominciato in realtà già con l'esposizione inaugurata mercoledì scorso, Vides de Boria Ordinaria, in collaborazione con la Scuola Holden di Torino. Scuola Holden. Avete un partnership con loro. E tra poco, tra praticamente un'ora, ci sarà il primo di questi incontri. Avremo alla Biblioteca Jaume Fuster, che ospita la maggior parte degli eventi del festival, Matteo Bianchi e Sebastià Porteglia. Paraules per definire il titolo di questo dialogo. Sì, apriranno Matteo Bianchi e Sebastià Porteglia con delle loro opere che definiscono molti aspetti dell'identità e del loro, sono molto personali come libri. Ci sarà Elena Petricola che sarà la moderatrice, però quello che vogliamo ottenere è un dialogo a tre e su differenti argomenti. Quindi durante tutto il festival è questo quello che vorremmo riuscire a costruire, sempre col fil rouge dei binari secondari, quindi delle identità in diversi ambiti, però che fossero proprio dei dialoghi, non tanto delle presentazioni di un autore e dell'altro in parallelo, ma che si mescolassero, una specie di ponte. E infatti domani poi tornate a bomba con una giornata ricchissima dalle 12 sempre alla Biblioteca Jaume Fuster, la larga via del riconoscimento con Viola Ordone, Marta Oriols e Silvia Querini. Appunto lì si toccherà il tema del ruolo delle donne, della violenza nella società, e poi alle 16 con Lost in Transition, dove l'identità si lega ai comic, alla novella, al romanzo grafico, con Leo Ortolani, Sara Soler, Annalisa Mirizio. E quindi appunto quello che tu dicevi dei binari secondari che toccano anche diversi generi. Assolutamente, assolutamente. Lo scorso anno già abbiamo iniziato con il graphic novel, che è un linguaggio che a me interessa moltissimo, e quest'anno quindi avremo di nuovo il graphic novel con Ortolani e Sara Soler, però altro linguaggio che tratteremo è la poesia, sempre nella giornata di sabato, oltre ad avere il collettivo Vuming, che quindi è un altro tipo di scrittura collettiva, quindi l'identità all'interno di un esercizio di scrittura collettiva, la poesia. E di questo sono molto contenta, perché la poesia non è solamente uno spettacolo per chiudere il festival, come è stato l'altro anno, ma ci sarà proprio una serata dedicata alla poesia, e lasceremo la Biblioteca Jaume Fuster perché ha i suoi orari, e andremo invece in un altro spazio, che è l'Ateneo Rosa de Foc. Quindi quest'anno ci sono tre luoghi dove si svolgerà il festival, oltre quello di mercoledì scorso in libreria. Eh sì, appunto, l'Ateneo Rosa dei Foc, Andrea Molesini e Elena Medel, domani sera, sabato 14 ottobre alle 21.30, un dialogo sulla poesia e poi una lettura poetica. E infine il festival si chiuderà domenica con una serie di incontri, fin dal mattino alle 11 alla Biblioteca Jaume Fuster, la presentazione del libro Marco Valdo, nel centenario della nascita di Italo Calvino, pensato anche per i ragazzi, e poi alle 12 Veronica Raimo e Elena Medel, Anatomia familiare, alle 13 Immaginifico, il titolo di questo incontro, che anche qui in questo caso gioca con non solo la letteratura ma con le illustrazioni estratte dal libro Cosimo di Roger Olmos, e poi vi sposterete in un altro spazio, il terzo, che è il Giardì del Silenzi, sempre a Grazia, con due spettacoli. In chiusura alle 19.30 ci sarà anche un concerto, che è quello di Peppe Voltarelli, che è stato spesso anche ospite qui a Zibaldone. Esatto, che tu conosci bene, perché è stato spesso a Zibaldone. Sì, quindi chiuderemo con un concerto, quindi ci sono la letteratura anche in varie forme, perché il libro di Roger Olmos, per esempio, è un silence book, cioè non ci sono parole, però la storia del barone rampante è molto incisiva in questo suo libro. E poi finiamo con un concerto che di un cantautore, quindi dove la parola è molto importante, non c'è solamente la musica. Quindi insomma il festival sta crescendo dallo scorso anno, come sicuramente tu ti ricorderai. Stiamo crescendo anche come spazi e come appoggi, quindi molto importante. Vorrei anche sì, esattamente, che quest'anno abbiamo di nuovo le biblioteche la rete di biblioteche di Barcellona, le biblioteche pubbliche, abbiamo il supporto del Comune di Barcellona, del Comune di Grazia, dell'Istituto Italiano di Cultura, dello IED e insomma, quindi siamo della Scuola Holden, ripetiamo, con la Scuola Holden, sì, un bel risultato e che ci fa sperare di rincontrarci con il prossimo autunno con una terza edizione. Sicuramente. Sì. So che sei impegnatissima, quindi ti lascio scappare anche per questo primo incontro. Lo ricordo ancora, oggi cominciano i dialoghi Paraules per definire alle 18.30 alla Biblioteca Jaume Fuster, poi ci saranno altri dialoghi, musica, poesia in diversi spazi di Grazia, ci sarà anche il comico, come avete sentito, e dei Wooming ne parleremo tra poco qui a Zibaldone, perché Wooming 4 è ospite di questa nostra puntata qui su Radio Contrabanda. Cecilia Ricciarelli, grazie mille di essere stata con noi e in bocca al lupo per questa seconda edizione del Flip. Grazie Steven e grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando. A presto, ciao. Vorrei volare, dimenticare, ricominciare in seno al vento. Ritornare per un momento nel più profondo regno animale. Planare sulle case, leggeri come folate estive. E poi salire, fin tanto da capire, di cosa è fatta la libertà. Nel regno animale per ritrovare sopra le nuvole il cielo terso Che bello questo pezzo, Banzo, devo dire la verità, insomma ci culla, ci fa un po' sognare. Lui è un artista che abbiamo seguito in questi anni qui a Zibaldone. Andrea Laszlo De Simone, Il Regno Animale, che è la colonna sonora del film presentato all'ultimo Festival di Cannes di Thomas Kailey, Le Regne Animali, Il Regno Animale. Ma veramente bellissimo questo brano, almeno non so che ne pensi tu. Steven, sì, ecco, bisognerebbe mantenere un atteggiamento neutro, però qui l'entusiasmo deborda. E devo dire, tu dicevi una canzone che ci ha cullato. Ecco, io stavo cercando, mentre la riascoltavo per l'ennesima volta, un'espressione adatta, e mi è venuto in soccorso Ungaretti, ecco, perché veramente ascoltando questa canzone ci si riconosce docili fibre dell'universo. Eh sì. Ha un afflato universale incredibile ed è tutto sommato una canzone pop di 5 minuti, ha una potenza incredibile. Sì, sì, con delle sonorità un po' anni 70 in alcune cose, un po' forse magari ci ricorda anche il Battisti di Anima Latina o cose così, però in realtà è un po' fuori dal tempo, no? Esatto, sì. Parte da quel riferimento vagamente retro, inteso ovviamente in senso non negativo, però diventa temporale quasi subito, anche con quella ripetitività della chitarra all'inizio, sì, che invece di, diciamo, annoiare, ecco, fa calare ancora più profondamente all'interno del pezzo, che poi cresce e cambia. Molto bello anche il video, so che è sempre strano parlare di immagini alla radio, però il video, ci sono questi scorci torinesi leggermente sgranati, ingrandimenti di mollette, beh, oggetti di quotidianità assoluta, però funziona benissimo con la canzone. Sì, e con l'idea di un regno animale, ecco, insomma, ci fa pensare. Comunque, insomma, tante sono le canzoni, le colonne sonore composte da artisti italiani, più o meno famosi, più o meno noti, molti di quelli che vi stiamo proponendo lo sono. Tra questi ci sono anche i Calibro 35, che insomma ormai sono un must per lo Zibaldone, ma per qualunque programma radiofonico, direi, in lingua italiana e non solo. Perché, Banzo, è uscita anche una canzone prodotta e interpretata di Calibro 35 insieme a May e Tani Rodriguez, che si intitola Little Girl Ready for Big Dreams, che è la sigla conclusiva della seconda stagione della serie TV Bianca trasmessa dalla Rai, e diciamo che lo stile, adesso lo sentirete, è sempre dalle parti del loro riconoscibilissimo, inconfondibile cinematic funk, però gli interventi vocali, ecco, apportano qualche cambiamento, perché addirittura c'è una parte rappata. Vabbè, ce l'andiamo a sentire subito, perché poi ci sta già aspettando in collegamento telefonico dall'Italia Wuming 4, con cui parleremo di questo, dell'ultima fatica dei Wuming, UFO 78, un romanzo davvero molto bello, me lo sono letto nelle settimane scorse, si presenterà domani qui a Barcellona al FLIB, ma adesso andiamo ad ascoltarci Calibro 35. Never had a chance in this world, grew up as a scared little girl. Days and nights alone, deep in the unknown, hoping I survive on my own. Little did I know what would come, didn't have to hurt or be numb. Step into my mind, I can hear the signs, living in the darkness I shine. They don't see I win at all, pity them cause they're the fool. They just hope for my downfall, now I see the glass half full. So it's time to get in the right position, and I know I'm ready to handle the mission. Big dreams and big ambition, one of one, no competition. Time to take my aim, when I shoot get out of the frame. What I do is not for the fame, it's time for a change, nothing was the same. Even though the odds are stacked against me, I was down and I was empty. Look at me, I hold the key, I guarantee normal. Ever been squashed down or stepped on, overlooked just because you're different and now you're being slept on. Don't give up cause you gotta take up space, you earned your place. Don't give up so that they can see your face, go at your pace. What is buried deep inside, something special they can't hide. We will never shrink cause we're on the brink, so we can't be pushed aside. Somebody tell them the scared little girl has died. Somebody tell them that all of the tears have dried. Whatever you dream, as hard as it seems, you got to believe. Even if it takes 10 years, bury your fears, put plans in gear. Don't you ever dim your light, now we're ready to take flight. Once we're in the sky, shining never bright, it's gonna be a beautiful sight. Ora al telefono con noi Wuming 4, i Wuming sono ospiti in questa edizione del FLIB, il Festival di Letteratura Italiana di Barcellona, a cui stiamo dedicando questa puntata di Zibaldone. Innanzitutto benvenuto a Wuming 4, un piacere, un vero onore averti ospite con noi quest'oggi a Zibaldone. Grazie, onore mio. No, un grande piacere, insomma, la storia dei Wuming è una storia che ormai è un quarto di secolo buono dalla pubblicazione di Q con il nome di Luther Blissett, era il 1999 quando uscì pubblicato per i tipi di Einaudi e poi tanti romanzi collettivi come Asce di guerra, 54, Manituana, fino a quest'ultimo UFO 78 che, di cui si parlerà anche domani qui a Barcellona all'interno del FLIB e poi altri progetti invece solisti, nel tuo caso nel 2004 era uscito Stella del Mattino e poi nel 2016 Il Piccolo Regno, entrambi ambientati nel contesto britannico dell'inizio del XX secolo. Ascolta, UFO 78, dopo aver viaggiato nella storia, nei vostri romanzi tra l'epoca moderna, l'epoca contemporanea, la Prima Guerra Mondiale, i partigiani evidentemente, ma anche la Rivoluzione Francese, ecco, UFO 78, vi avvicinate molto all'attualità, parlando dell'Italia, diciamo del lungo 68, l'Italia, meglio dire, della fine di quel ciclo politico. Beh sì, è un salto di riavvicinamento non da poco. Ecco, forse la cosa più prossima che avevamo scritto come collocazione temporale prima di questa era 54, ambientato appunto nel 1954. Certo che scrivere un romanzo storico, tra virgolette, ambientato nel 1978 significa fare i conti non solo con tanti lettori che c'erano, ecco, e quindi possono anche ricordare una serie di eventi, darti dei giudizi su come è ricostruito l'epoca, ma anche fare i conti con i propri ricordi in questo caso, perché noi eravamo bambini, ma già c'eravamo. Certo, coi ricordi e la memoria dei bambini in questo caso. Però ecco, è stata un po' una sfida che ci siamo anche voluti porre. Ecco, noi non, da un po' ormai abbiamo deciso di non scrivere più romanzi storici alla Uming, ecco, ma di provare strade nuove, anche appunto per stimolare noi stessi il nostro lavoro collettivo. E questo in qualche modo è un po' appunto un romanzo che marca questo passaggio. Eh sì, e la questione appunto dei ricordi, quanto questi ricordi hanno influito, io credo che è una questione molto importante, lega in fin dei conti la complessa relazione tra memoria e storia. Assolutamente, e qui è spinoso ovviamente, perché ognuno poi ha il proprio ricordo, la memoria è sempre soggettiva. Certo, per certi versi è più facile ambientare un romanzo nel 500 o nel 700, ecco, perché nessuno ti può confutare dicendo io c'ero, è andata così, è andata cos'ha. Consulti le fonti e poi in qualche modo fai una media, ecco, delle varie fonti. Non solo, c'è anche da dire che quando arrivi a parlare di 900 hai una moltiplicazione delle fonti e dei media anche a cui puoi fare riferimento. Per quanto riguarda il 78, per esempio, abbiamo potuto accedere alle audioteche, videoteche Rai, no? Per vedere cosa passasse la televisione, per esempio, in quell'anno, oppure la musica che andava per la maggiore o per la minore, a seconda delle nicchie anche di ascolto e di consumo, le mode, insomma. C'è tanta roba, tante fonti che si possono consultare ed è anche facile quindi perdercisi dentro queste fonti o farsene in qualche modo dominare. Noi abbiamo cercato un'angolazione sghemba, come al solito, per entrare in questo anno particolare. Siamo entrati, diciamo, usando le astronavi, gli oggetti volanti non identificati, ecco. Quindi abbiamo scelto un approccio strano che qualcuno, insomma, ci ha anche fatto notare. Qualcuno forse si aspettava un romanzo diverso da Uming sul lungo 68, come l'hai definito anche tu, ma in un certo senso spiazzare i propri lettori è quasi un dovere, ecco, non dare proprio del tutto quello che si aspettano. L'importante è che poi li hai accontentati con la storia che hai raccontato, ecco, che quella sia piaciuta. Sì, tra l'altro anche perché parliamo di un periodo, di alcuni avvenimenti come il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, insomma, in cui nella memoria collettiva, nei prodotti di cultura di massa, che siano letteratura o film o serie televisive, penso all'ultimo lavoro di Marco Bellocchio, ecco, c'è un surplus nella memoria italiana di materiali al riguardo. Dunque anche la difficoltà di affrontare, direi, questa fase storica, questo momento, è un avvenimento che in fin dei conti non è, diciamo, non ruota attorno solo alla figura di Moro, senza fare spoiler, UFO 78, però ecco, fin dalla copertina è presente quasi come se fosse un UFO, appunto la famosa Reno 4 rossa in cui fu trovato a maggio del 78 il cadavere dello statista democristiano. Sì, sicuramente quello è, come dire, l'evento cardine dal punto di vista politico, se non altro, di quell'anno e forse anche di quel pezzo di storia d'Italia. Quindi non è mai casuale, ecco, che si scelgano determinati anni piuttosto che altri. Il 78 è un anno crinale, ecco. Segna la fine degli anni 70, di fatto, l'avvio già di nuove tendenze. oltre che di una nuova fase politica, proprio di tendenze nei consumi, negli usi e nel modo di pensare, eccetera. Però non sono già gli anni Ottanta, ecco, inizia un periodo, diciamo così, di interregno, una fase ibrida che durerà almeno 4-5 anni e che ci traghetterà verso i ruggenti anni Ottanta, appunto, che sono già qualcosa di completamente diverso. Da questo punto di vista, quindi, in realtà è un momento molto interessante da raccontare, soprattutto perché poi abbiamo scoperto che in questo anno, oltre appunto ai grandi, ai macro eventi storici e politici, ce n'è uno che è passato più sotto silenzio, ecco, comunque è andato dimenticato negli anni successivi, e cioè il picco di avvistamenti di oggetti volanti non identificati che si registrò proprio in quell'anno in Italia e che al momento non ha eguali nella storia, insomma, non sono mai stati avvistati così tanti UFO in un singolo paese in un singolo anno, più di 2000 avvistamenti testimoniati, quindi è successo qualcosa, ecco, quell'anno, nei cieli d'Italia, ecco, o nella mente delle persone che guardavano verso il cielo in Italia. E questo è un po', come dire, il filo conduttore del nostro romanzo, che poi, insomma, per il resto è anche una storia invece molto, molto legata, ecco, al concreto. C'è addirittura una detection, ecco, anche se condotta da investigatori molto sui generis, ecco, non in divisa. Non in divisa, poi ovviamente lasciamo scoprire anche ai lettori la storia di UFO 78 senza fare troppi spoiler, però sì, come tu raccontavi, ci sono diversi piani, appunto quello più politico, quello della storia italiana, quello dell'ufologia, che sembra forse quello più esterno, come tu raccontavi, a tutta questa fase politica, però che è uno dei fili conduttori principali del vostro romanzo, ma poi c'è appunto questo cambio di fase politica, insomma, l'inizio degli anni di quelli che saranno poi il cosiddetto riflusso, ma poi tematiche come il femminismo, l'arrivo con forza dell'eroina, le lotte per l'aborto e tante altre cose, ovviamente anche la lotta armata di fondo. Da questo punto di vista volevo domandarti anche un'altra questione che è interessante. Ci sono, diciamo, o appaiono tra i personaggi del vostro romanzo anche una rottura generazionale. Martin Zanca, no? Uno dei protagonisti del romanzo, è uno scrittore di successo, ma che viene da una cultura comunista, per quanto eterodossa anche nella sua vita, che rappresenta, insomma, chi aveva vissuto la resistenza e l'inizio della storia repubblicana. Ecco, invece poi c'è tutta un'altra generazione di giovani di diversa tipologia che rappresentano la generazione figlia in fin dei conti del 68, cioè figlia che rappresenta protagonisti del 68 del 77. Sì, c'è sicuramente il conflitto generazionale che si manifesta non solo nel rapporto tra Zanca e il figlio, cioè tra l'ex partigiano e il giovane, diremmo oggi, settantasettino, ecco, per capirci, che però in realtà è finito a farsi le pere, sì. Quindi in realtà è un ex tossico, ma insomma c'è anche il conflitto tra il personaggio di Rossella, per esempio, che è una giovane rampolla dell'alta borghesia milanese che ha scelto, diciamo, di contestare la famiglia d'origine ed è andata a vivere in una comune, ecco, in Lunigiana. Ci sono sicuramente c'è questa conflittualità, così come c'è anche la sparizione di una generazione, perché io credo, e qui però ragiono da lettore prima ancora che da autore, che tutta la storia ruota intorno a una sparizione, alla sparizione di due ragazzini, di due boy scout. Non è uno spoiler perché viene raccontato nel prologo del romanzo, nelle primissime pagine, che appunto scompaiono durante una gita con i boy scout, e credo che questo abbia in qualche modo anche un valore metaforico o allegorico, se vogliamo, ecco, che una generazione, quella, proprio quella, ecco, di chi era giovane o giovanissimo in quegli anni, abbia subito una falcidie, vuoi per l'eroina, vuoi per la repressione poliziesca o politica, vuoi perché invece appunto il riflusso ha colpito durissimo, eccetera. Quindi è stata davvero una generazione perduta per certi versi, ecco. E credo che il romanzo parli anche di questo. assolutamente. Tra l'altro, insomma, uno dei luoghi in cui si sviluppa il romanzo è anche un luogo molto particolare, il Quarzerone, che immagino che molti ascoltatori non conosceranno, nella Lunigiana, e anche questo, diciamo, ci porta in una realtà particolare e appunto forse sconosciuta ai più. Beh no, gli ascoltatori non possono conoscere il Quarzerone perché non esiste. Esattamente. Se lo cercano su Google Maps non lo trovano. Esattamente. Qualcuno lo ha fatto, ha progettato gite, ecco, per fortuna hanno per tempo controllato. Ecco. Noi ci siamo inventati un pezzettino di Lunigiana, è vero. La Lunigiana è proprio quella strana interzona tra Emilia, Toscana e Liguria, che conosciamo, un angolo davvero particolare d'Italia, però dentro la Lunigiana abbiamo ricavato appunto un piccolo angolo con questa montagna immaginaria, con un paese immaginario, eccetera, dove ambientare in qualche modo la vicenda principale, dove far incontrare i vari personaggi, dove si incrociano le varie linee narrative. Se vogliamo, fa un po' il verso, un omaggio un po' anche alla montagna di Incontri ravvicinati del terzo tipo, che fu proprio il film campione di incassi di quell'anno. Non a caso un film che parlava di UFO, appunto, di incontri con alieni. Può ricordare un po' la montagna di Picnic a Hanging Rock, ecco, dove scompaiono le famose studentesse, no? Nel film di Peter Weir, tratto da un romanzo di un'autrice australiana. Ci sono varie citazioni in questo senso. È un piccolo triangolo delle Bermude, chiamiamolo così. Ecco, ci sono molte leggende su questo quarterone, come molto andavano di moda proprio negli anni 70. E quindi noi lo abbiamo trasformato un po' nell'epicentro della nostra storia, dove accadono delle cose strane. Ecco. Poi alcune di queste hanno delle spiegazioni, se vogliamo, più razionali, ecco, che hanno a che fare con la storia stessa di questo nostro paese, altre invece hanno delle spiegazioni diverse, forse più legate alle culture ancestrali, ad antichi rituali e ad antiche, diciamo, tradizioni folcloriche. Però questo appunto poi si scoprirà solo leggendo che cosa è dovuto a che cosa, e quindi fa parte un po' del viaggio della lettura del romanzo. Una curiosità, ma c'era qualcuno di voi che era esperto o appassionato di UFO e ufologia prima di cominciare le ricerche per scrivere questo romanzo? Appassionati veri e propri no, diciamo che conoscevamo quantomeno di fama e ci aveva sempre incuriosito il lavoro di quest'autore a cui ci siamo ispirati per il personaggio di Martin Zanka, che è stato Peter Colosimo, un autore che appunto ha inventato quasi un filone, quello della paleocosmonautica, ecco, degli incontri ravvicinati tra alieni e civiltà primitive, ecco, del pianeta Terra. Filone che poi ha avuto tanto seguito, ecco, tanto sequel anche nel cinema, nella televisione, eccetera. E Peter Colosimo vendeva tantissimo tra anni 60 e 70, era famosissimo, quasi tutti avevano almeno un suo libro in casa, libri che peraltro erano anche parecchio simili uno all'altro. Sì. E noi ci siamo proprio ispirati a lui, in qualche modo l'idea ci è venuta da lì, quando poi ci siamo accorti, ci siamo imbattuti in questo record, ecco, da Guinness dei primati, che l'Italia ancora detiene sul 78 per il numero di avvistamenti UFO, la domanda è stata come mai, perché tutti quegli avvistamenti proprio nel 78, e quindi siamo partiti da lì, ecco. Ascolta, prima parlavamo anche appunto del 78 come un anno che segna no, un momento di rottura chiarissimo nella storia italiana. Ecco, dal tuo punto di vista personale o collettivo come Wuming, cosa resta di tutta quel periodo, di tutto quello che ha rappresentato l'Italia nel lungo 68, che insomma oggi non c'è più, anzi sembra una cosa davvero di ere geologiche molto lontane. Secondo te, secondo voi, che cosa resta di tutto quello? Guarda, è una domanda difficile, nel senso che penso che ogni generazione successiva potrebbe dare una risposta diversa. Noi apparteniamo alla generazione figlia biologica di quell'epoca, nel senso che appunto eravamo bambini noi negli anni 70, e, bambini piccoli intendo dire. Sicuramente è un grande rimosso nella storia di questo paese, ce ne sono altri, per carità, ad esempio la nostra storia coloniale, si parla anche di questo in UFO 78 tra l'altro, ma sicuramente quel decennio che ha reso particolarissima l'Italia, nel senso che non c'è un altro paese al mondo dove il 68 abbia prodotto uno strascico così lungo, abbia avuto un impatto, ecco, così duraturo, sulla società, sui costumi e sulla politica. È stato rimosso tutto questo, quella particolarità è stata rimossa, è stata normalizzata, ecco. E l'immagine che ci è stata imposta più o meno negli anni a seguire, ecco, è stata quella degli anni di piombo, no? Quindi gli anni delle cosiddette stragi di Stato, no? degli attentati, del terrorismo, eccetera, eccetera, la lotta armata. Beh, il fatto è che sono stati tanto altro gli anni 70, sono stati anni di creatività in cui la musica ha raggiunto dei picchi di sperimentazione incredibili, sono stati anni di creatività artistica, di fumettisti, fumettari, di scrittori, appunto, sono stati forse l'ultimo decennio d'oro della fantascienza, della narrativa di fantascienza, prima che entrasse in crisi, perché entrò in crisi un'idea di futuro, quando non c'è più una prospettiva di futuro, va in crisi anche il futuribile, ecco, e quindi poi la fantascienza venne meno, si passò ad altro, si passò più al fantasy, a mondi paralleli piuttosto che a mondi futuri. Furono davvero anni di grande esplosione creativa, e furono anche anni di ufologia, appunto. E credo che appunto noi abbiamo cercato di restituire anche tutto questo, questa complessità, ecco, non solo gli aspetti per cui gli si è voluti in qualche modo rimuovere, gli si è voluto attaccare questa etichetta, no? Plumbea, no? Proprio letteralmente plumbea, gli anni di piombo. Credo che sia sempre necessario storicizzare, ma storicizzare in maniera complessa, sì. Quindi fare vedere tutto questo quest'altro che c'è stato, anche sul piano politico, perché anche sul piano politico, comunque, benché quella storia alla fine si sia esaurita, sia finita, comunque sono stati prodotti degli esperimenti molto interessanti. Eh sì. E anche di questo si parlerà domani, sabato 14 ottobre alle 18, insieme ai Wuming, per parlare di questo UFO 78, nella cornice del FLIB, il Festival di Letteratura Italiana di Barcellona, la sua seconda edizione. Wuming 4, grazie davvero di averci accompagnato e ti ascolteremo anche domani qui a Barcellona. Grazie a voi, ciao. Jannik Sinner non si ferma più dopo lo spagnolo Alcaraz, batte per la prima volta il russo Putin. Una stagione d'oro per il tennista che questa settimana raggiunge la pace giusta fra fratelli. Gli esperti, non è finita qui. La soddisfazione della Premier Meloni al vertice di Granada, tutti d'accordo a sorridere, che fa bene anche alla salute. Ma molti italiani ci rinunciano. Meloni, sono basita. Gli insegnanti sognando un abbraccio. Lamentano in Italia una situazione insostenibile. Aumentate del 25% le patate, seguite da mancanza di rispetto e aggressioni fisiche. Necessario, dicono, il supermissile nucleare. Netanyahu avverte, siamo in guerra, ora campagna militare lunga che fa bene anche alla salute. Hamas rivendica, lo Stato ebraico mi ha accusato della morte del suo cane. E in Egitto, in piazza l'abbraccio fra due terroristi che subito dopo esplodono. Salvini, un giorno senza volti noti fra chi grida assassini e un giorno perso. Polemiche per un video del 2018 che mostrerebbe Charlie Chaplin o una manifestazione contro il governo. Avete sentito che sono tornate anche in chiusura di questa puntata di Zibaldone, le ultimissime del nostro Fausto. Banzo, insomma, io partirei subito per un commento veramente telegrafico su Charlie Chaplin. Beh, sì, non lo so, una manifestazione 2018, a me risulta fosse morto da un po', però diciamo che quando c'è da protestare col governo si possono trovare delle motivazioni speciali, ecco. Poi non lo so, bisognerebbe verificare. Rick sembra un falso. Beh, vabbè, comunque la Meloni è basita. Insomma, vabbè, insomma, la situazione internazionale sappiamo che è molto complessa e drammatica, diciamolo, quello che sta succedendo non solo da tempo ormai in Ucraina, ma anche in Israele, nella striscia di Gaza. E Banzo, comunque, Steven, sì. Beh, oltre alla vittoria di Sinner sul russo Putin, che non sapevo si dedicasse al tennis. Cioè, parlavamo di situazioni drammatiche a livello mondiale, gli insegnanti che contro il caro delle patate propongono un supermissile nucleare mi sembrano veramente preoccupati. Sì, mi sembrano anche a me molto preoccupati. Banzo, dopo i Wuming, prima delle ultimissime, ci siamo ascoltati la sigla di una che non poteva mancare, visto che ci sono anche le colonne sonore che ci accompagnano in questa puntata di Zibaldone, di Esterno Notte, la serie uscita l'anno scorso di Marco Bellocchio sul caso Moro, di cui insomma, in fin dei conti, lo avete capito da quello che ci ha raccontato Wuming 4, ecco, in quel contesto si inserisce il loro nuovo romanzo UFO 78. Ecco, insomma, Esterno Notte a me è piaciuto molto, una serie molto coraggiosa anche da parte di Marco Bellocchio. Beh, è già la seconda opera che dedica, sì, al caso Moro dopo Buongiorno Notte, però diciamo che innanzitutto si tratta di un grandissimo cineasta, quindi ha libertà di azione. Il caso Moro è uno dei nodi della nostra storia repubblicana, quindi diciamo che fornisce materiale a sufficienza per molte opere di grande qualità. E comunque, se hanno dedicato 5 film al giustiziere della notte, io credo che Bellocchio possa fare 2 film, 2 opere sul caso Moro. Comunque, ecco, magari sul caso Moro io da un po' che ci penso una puntata monografica più avanti a Zibaldone, ma dal punto di vista non tanto storico fattuale, ma dal punto di vista della memoria collettiva tra cinema e letteratura. Ci torneremo. Così, per il gusto di metterci in un ginepraio. Sì, ecco, per la serie delle cose facili. Allora, siamo in chiusura, però, oltre a ricordarvi il FLIB che si sta tenendo, lo sapete ormai, in questi giorni a Barcellona, ecco, prossimamente si terrà anche un altro festival che ha a che fare con la cultura italiana qui nella Ciudad Condal. Si chiama In Scena, Festival della Cultura Italiana Les Artes Esteniques, diretto da Sandro Dieli, che è stato in passato nostro ospite, e comincerà mercoledì 18 ottobre proprio alla Libreria Le Nuvole di Grassia, con uno spettacolo dello stesso Dieli, Respiro di Mare, e poi continuerà da giovedì 19 ottobre fino a domenica 29 ottobre al Golem Teatra, che è un teatro molto bello, sempre del quartiere di Grassia, e parteciperanno Peppe Voltarelli con uno spettacolo, ce n'è un altro monologo di David Puccetti intitolato Solo, un musical Dolce Vita, insomma, altri spettacoli di altre compagnie. Vi segnaliamo anche il concerto di Diego ospitalieri e Juan Sanchez sabato 28 ottobre per concerto piano solo, e infine la chiusura domenica 29 ottobre alle 19. Gli spettacoli sono al Golem Teatre o alle 19 o alle 17, quindi nel tardo pomeriggio. Storie per mangiare, il cibo racconta. Quindi insomma avete festival di letteratura, festival di arte sceniche con il teatro in prima linea, ecco, tante cose di cultura italiana qui a Barcellona. E Banzo, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e ci salutiamo come sempre con un ultimo trago che ha a che fare con musica italiana interpretata in lingua spagnola o da questo lato dell'Atlantico o dall'altro. Sì, esatto, la rubrica De Italia Otra Parte, che è diventato praticamente l'ultimo trago, e a questo giro vi proponiamo una versione in spagnolo di una canzone assolutamente celeberrima, cioè Dio ha morto, dei Nomadi, scritta da Guccini, interpretata dall'argentina Marilina Ross con il titolo Dios ha muerto. E molto rapidamente, visto che non avrò la possibilità di commentare dopo il testo, volevo segnalare, il testo è abbastanza fedele, ma ci sono dei piccoli cambiamenti, ad esempio uno contestuale, con un riferimento, uno dei fattori della morte di Dio è i desaparecidos, quindi un riferimento a uno dei più grandi drammi della storia argentina, mentre invece nel finale, diciamo la parte di apertura alla speranza, nella canzone I Nomadi avevamo la mia generazione, invece essendo che poi anche questa versione è stata proposta molti anni dopo, circa nel 2002, Marilina Ross si rivolge alla tua generazione, cioè alla generazione di quelli del futuro, ecco. Questo sì. È un cambio molto importante rispetto alla versione originale. Ce la andiamo a sentire, Marilina Ross, Dios ha muerto. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo con uno speciale dedicato al Premio Tenco 2023. Fate i bravi, fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.55-56 diceva tutti i venerdì: abbiamo parlato del flib. Flib, flib suona proprio bene, non sarebbe un'onomatopea bellissima, come un fumetto, flib, così. Ciao Banzo, stammi bene. Alla prossima, Steven. Dios ha muerto, Marilina Ross. He visto a tanta gente de mi edad que se está yendo por calles que no llevan a ninguna parte, detrás de un vuelo que conduce a la locura, buscando algo que jamás encontrarán, huyendo de la realidad, gastando noches que en el vino se han borrado, dentro de cuartos por pastillas transformados, por nubes de humo escaparán de un mundo loco de ciudad, en medio de la soledad, nuestra cansada humanidad es Dios que ha muerto, durmiendo en las veredas Dios ha muerto, comiendo en la basura Dios ha muerto, en dólares y bancos Dios ha muerto. Me han dicho que mi generación vencida ya no cree, que enmascarado tras la fe algo se esconde, como en el mito de la patria y de los héroes, habrá llegado ya el momento de gritar que todo es una falsedad. La fe está hecha de costumbres y de miedos, y la política ahora es solo una carrera en donde todo tiene un precio, la vida es lo que menos vale, la dignidad es un paquete que no contiene nada dentro. Es Dios que ha muerto en campos de exterminio, Dios ha muerto con desaparecidos, Dios ha muerto en pueblos sometidos, Dios ha muerto. En cambio, siento que tu generación está pariendo un mundo nuevo, una esperanza no abortada. Un cambio de conciencia habrá que desde adentro crecerá y nadie lo podrá evitar, porque después de los tres días